terzo anello ad alta voce. Lessico familiare di Natalia Ginzburg. Mio padre, quando si sposò, lavorava a Firenze nella clinica di uno zio di mia madre, che era soprannominato il Demente, perché era medico dei matti. Il Demente era in verità un uomo di grande intelligenza, colto e ironico, e non so se abbia mai saputo di essere chiamato in famiglia così. Mia madre conobbe, in casa della mia nonna paterna, la varia corte delle Margherite e delle Regine, cugine e zie di mio padre, e anche la famosa Vandea, ancora viva in quegli anni. Quanto al nonno parente, era morto da tempo, e così pure sua moglie, la nonna Dolcetta, e il loro servitore, che era Beppo Fachin. Della nonna Dolcetta si sapeva che era piccola e grassa, come una palla, e che faceva sempre indigestione, perché mangiava troppo. Stava male, vomitava e si metteva a letto, ma dopo un poco la trovavano che mangiava un uovo. «Il zefresco», diceva per giustificarsi. Avevano, il nonno parente e la nonna Dolcetta, una figlia chiamata Rosina. A questa Rosina le morì il marito, lasciandola con bambini piccoli e pochi denari. Tornò allora nella casa paterna. E il giorno dopo che era tornata, mentre sedevano tutti a tavola, la nonna Dolcetta disse guardandola: «Cosa gà oggi la nostra Rosina, che non la sede il suo solito umor?» La storia dell'uovo della nonna Dolcetta e la storia della nostra Rosina fu mia madre a raccontarcele per disteso, perché mio padre, lui, raccontava male, in modo confuso e sempre inframmezzando il racconto di quelle sue tuonanti risate, perché i ricordi della sua famiglia e della sua infanzia lo rallegravano. Per cui di questi racconti spezzati da lunghe risate noi non capivamo gran cosa. Mia madre invece si rallegrava raccontando storie, perché amava il piacere di raccontare. Cominciava a raccontare a tavola, rivolgendosi a uno di noi, e sia che raccontasse della famiglia di mio padre, sia che raccontasse della sua, s'animava di gioia ed era sempre come se raccontasse quella storia per la prima volta a orecchie che non ne sapevano nulla. «Avevo uno zio», cominciava, «che lo chiamavano il Barbison». E se uno allora diceva: «Questa storia la so, l'ho già sentita tante volte», lei allora si rivolgeva a un altro e sottovoce continuava a raccontare. «Quante volte l'ho sentita questa storia?» tuonava mio padre, cogliendone al passaggio qualche parola. Mia madre, sottovoce, raccontava. Il Demente nella sua clinica aveva un matto che credeva di essere Dio. Il Demente ogni mattina gli diceva: «Buongiorno, egregio signor Lippmann». E allora il matto rispondeva: «Egregio forse sì, Lippmann probabilmente no», perché lui credeva di essere Dio. C'era poi la famosa frase di un direttore d'orchestra, conoscente del Silvio, che trovandosi a Bergamo per una tournée, aveva detto ai cantanti distratti o indisciplinati: «Non siamo venuti a Bergamo per fare campagna, bensì per dirigere la Carmen, capolavoro di Bizet». Noi siamo cinque fratelli. Abitiamo in città diverse, alcuni di noi stanno all'estero e non ci scriviamo spesso. Quando ci incontriamo possiamo essere l'uno con l'altro indifferenti o distratti, ma basta fra noi una parola. Basta una parola, una frase, una di quelle frasi antiche, sentite e ripetute infinite volte nel tempo della nostra infanzia. Ci basta dire: «Non siamo venuti a Bergamo per fare campagna», o «De cosa spusa l'acido solfidrico», per ritrovare a un tratto i nostri antichi rapporti e la nostra infanzia e giovinezza, legata indissolubilmente a quelle frasi, a quelle parole. Una di quelle frasi o parole ci farebbe riconoscere l'uno con l'altro, noi fratelli, nel buio di una grotta, fra milioni di persone. Quelle frasi sono il nostro latino, il vocabolario dei nostri giorni andati. Sono come i geroglifici degli egiziani o degli assiro-babilonesi, la testimonianza di un nucleo vitale che ha cessato di esistere, ma che sopravvive nei suoi testi, salvati dalla furia delle acque, dalla corrosione del tempo. Quelle frasi sono il fondamento della nostra unità familiare, che sussisterà finché saremo al mondo, ricreandosi e risuscitando nei punti più diversi della terra, quando uno di noi dirà «Egregio signor Lippmann», e subito risuonerà al nostro orecchio la voce impaziente di mio padre: «Finitela con questa storia, l'ho già sentita tante di quelle volte!» Come mai da quella stirpe di banchieri che erano gli antenati e i parenti di mio padre siano usciti fuori mio padre e suo fratello Cesare, del tutto destituiti d'ogni senso degli affari, non so. Mio padre spese la sua vita nella ricerca scientifica, professione che non gli fruttava denaro, e aveva del denaro un'idea quanto mai vaga e confusa, dominata da una sostanziale indifferenza, per cui quando gli capitò d'avere a che fare col denaro, lo perdette sempre, o almeno si condusse in modo da doverlo perdere, e se non lo perdette e gli andò liscia, fu un semplice caso. Lo accompagnò per tutta la vita la preoccupazione di trovarsi da un momento all'altro sul lastrico, preoccupazione irrazionale che abitava in lui unita ad altri malumori e pessimismi, come il pessimismo sulla riuscita e sulla fortuna dei suoi figli. Preoccupazione che gravava in lui come un fosco ammasso di nuvole nere su rocce e montagne e che tuttavia non toccava, nelle profondità del suo spirito, la sua sostanziale, assoluta, intima indifferenza al denaro. Diceva una forte somma, parlando di 50 lire, o anzi, come diceva lui, 50 franchi, perché la sua unità di misura monetaria era il franco e non la lira. La sera faceva il giro delle stanze tuonando contro di noi che lasciavamo le luci accese, ma gli accadde poi di perdere i milioni senza quasi accorgersene, o con certi titoli che comprava e vendeva a caso, o con editori ai quali cedeva i suoi lavori trascurando di chiederne un equo compenso. Dopo Firenze i miei genitori se ne andarono a stare in Sardegna, perché mio padre era stato nominato professore a Sassari e per alcuni anni vissero là. Poi si trasferirono a Palermo, dove sono nata io, l'ultima di 5 fratelli. Mio padre andò in guerra come ufficiale medico sul Carso e infine venimmo ad abitare a Torino. Furono i primi anni di Torino per mia madre anni difficili. Era appena finita la prima guerra mondiale. C'era il dopoguerra, il caro viveri, avevamo pochi denari. A Torino faceva freddo. E mia madre si lamentava del freddo e della casa che mio padre aveva trovato prima che noi arrivassimo senza consultare nessuno e che era umida e buia. Mia madre, a quanto diceva mio padre, s'era lamentata a Palermo e s'era lamentata a Sassari. Aveva sempre trovato il modo di brontolare. Ora parlava di Palermo e di Sassari come del paradiso terrestre. Aveva, tanto a Sassari come a Palermo, molte amicizie, alle quali però non scriveva perché era incapace di mantenere rapporti con persone lontane. Aveva avuto là belle case piene di sole, una vita comoda e facile, donne di servizio bravissime. A Torino, i primi tempi, non riusciva a trovare donne di servizio, finché capitò un giorno, non so come, in casa nostra la Natalina, e ci rimase 30 anni. In verità, anche se brontolava e si lamentava, a Sassari e a Palermo mia madre era stata molto felice, perché aveva una natura lieta e dovunque trovava persone da amare e dalle quali essere amata, dovunque trovava modo di divertirsi alle cose che aveva intorno e di essere felice. Era felice anche in quei primi anni a Torino, anni scomodi se non forse duri, e nei quali lei spesso piangeva per i malumori di mio padre, per il freddo, la nostalgia di altri luoghi, i suoi figli che diventavano grandi e che avevano bisogno di libri, di cappotti, di scarpe e non c'erano tanti soldi. Era tuttavia felice perché appena smetteva di piangere diventava allegrissima e cantava a squarciagola per casa il Lohengrin, la pianella perduta nella neve e Don Carlos Tadrid. E quando più tardi ricordava quegli anni in cui aveva ancora tutti i figli in casa e non c'erano soldi, le immobiliari andavano sempre più giù e la casa era umida e buia, ne parlava sempre come di anni bellissimi e molto felici. Il tempo di Via Pastrengo, diceva più tardi per definire quell'epoca. Via Pastrengo era la strada dove abitavamo allora. Thank you. La casa di via Pastrengo era molto grande. C'erano 10 o 12 stanze, un cortile, un giardino e una veranda a vetri che guardava sul giardino. Era però molto buia e certo umida, perché un inverno nel cesso crebbero 2 o 3 funghi. Di quei funghi si fece in famiglia un gran parlare e i miei fratelli dissero alla mia nonna paterna, nostra ospite in quel periodo, che li avremmo cucinati e mangiati. E mia nonna, sebbene incredula, era tuttavia spaventata e schifata e diceva: «In questa casa si fa bordello di tutto». Io ero a quel tempo una bambina piccola e non avevo che un vago ricordo di Palermo, mia città natale, dalla quale ero partita a 3 anni. Mi immaginavo però di soffrire anch'io della nostalgia di Palermo, come mia sorella e mia madre, e della spiaggia di Mondello, dove andavamo a fare i bagni, e di una certa signora Messina, amica di mia madre, e di una ragazzina chiamata Olga, amica di mia sorella, che io chiamavo Olga Viva, per distinguerla da una mia bambola, Olga, e di cui dicevo ogni volta che la vedevamo sulla spiaggia: «Mi vergogno di Olga Viva». Queste erano le persone che c'erano a Palermo e a Mondello. Cullandomi nella nostalgia o in una finzione di nostalgia, feci la prima poesia della mia vita, composta di 2 soli versi. «Palermino, Palermino, sei più bello di Torino». Questa poesia fu salutata in casa come il segno di una precoce vocazione poetica e io, incoraggiata da tanto successo, feci subito 2 altre poesie brevissime che riguardavano montagne delle quali sentivo parlare dai miei fratelli. «Viva la grivola, se mai si scivola! Viva il Monte Bianco, se mai sei stanco!» Del resto, in casa nostra era molto diffusa l'abitudine di fare poesie. Mio fratello Mario aveva fatto una volta una poesia su certi ragazzini tosi che giocavano con lui a Mondello e che non poteva soffrire. «E quando arrivano i signori tosi, tutti antipatici, tutti noiosi». Ma la più famosa e la più bella era una poesia che aveva fatto mio fratello Alberto sui 10-11 anni e che non era legata ad alcun fatto reale, ma creata dal nulla, puro frutto dell'invenzione poetica. «La vecchia zitella senza mammella ha fatto un bambino tanto carino». Si recitava in casa nostra «La figlia di Iorio», ma si recitava soprattutto la sera intorno alla tavola una poesia che sapeva mia madre e che ci aveva insegnato, avendola sentita nella sua infanzia, una recita di beneficenza in favore degli scampati a un'inondazione nella pianura padana. «Eran parecchi giorni che si tremava tutti, ed i vecchi dicevano: Madonna santa, i flutti ingrossan d'ora in ora. Date retta, figlioli, partite con la roba. Ma che, lasciarli soli, poveri vecchi buoni! Il babbo non voleva, e poi il babbo è ardito e giovane e non credeva che dovesse succedere quell'orribil cosa. Ancora quella sera disse alla mamma: Rosa, fa coricare i bimbi e tu pur dormi in pace. Il po è tranquillo, come un gigante che giace nel gran letto di terra che gli ha scavati Dio. Va, dormi, tanti spirti sicuri come il mio vegliano sulla sponda, tante robuste spalle son là per difender questa povera valle». Mia madre il seguito se l'era dimenticato e credo che ricordasse con poca esattezza anche questo inizio, perché per esempio là dove dice «il babbo è ardito e giovane» il verso s'allunga senza rispetto ad alcuna metrica, ma suppliva alle imprecisioni della sua memoria con l'enfasi che metteva nelle parole «tante robuste spalle son là per difender questa povera valle». Mio padre questa poesia non la poteva soffrire e quando si sentiva declamare insieme a mia madre si arrabbiava e diceva che facevamo il teatrino e che eravamo incapaci di occuparci di cose serie. Ci venivano a trovare quasi ogni sera Terni e certi amici di mio fratello Gino, il maggiore di noi, che frequentava in quegli anni il Politecnico. Si stava intorno alla tavola a recitare poesie e a cantare. «Io son Don Carlos Tadrid e son studente in Madrid», cantava mia madre. E mio padre, che se ne stava a leggere nel suo studio, s'affacciava ogni tanto alla porta della stanza da pranzo, sospettoso, accigliato e con la pipa in mano. «Sempre a dir sempiezzi! Sempre a fare il teatrino!» Thank you. Mio padre, gli unici argomenti che tollerava erano gli argomenti scientifici, la politica e certi spostamenti che avvenivano in facoltà. Quando qualche professore veniva chiamato a Torino, ingiustamente secondo lui, perché si trattava di un sempio, o quando un altro non veniva chiamato a Torino, ingiustamente, essendo persona che lui giudicava di grande valore. Sugli argomenti scientifici e su quello che succedeva in facoltà, nessuno di noi era in grado di seguirlo, ma lui a tavola informava giornalmente mia madre sia della situazione in facoltà, sia di quello che era accaduto nel suo laboratorio a certe culture dei tessuti che aveva messo sotto vetro, e si arrabbiava se lei si mostrava distratta. Mio padre a tavola mangiava moltissimo, ma così in fretta che sembrava non mangiasse nulla, perché il suo piatto era subito vuoto. Ed era convinto di mangiare poco e aveva trasmesso questa sua convinzione a mia madre, che sempre lo supplicava di mangiare. Lui invece sgridava a mia madre perché trovava che mangiava troppo. Non mangiar troppo, farai l'indigestione. Non strapparti le pipite, tuonava di tanto in tanto. Mia madre, infatti, aveva il vizio fin da bambina di strapparsi le pipite, avendo avuto un patereccio e, in seguito, il dito che si spellava una volta nel suo collegio. Tutti noi, secondo mio padre, mangiavamo troppo e avremmo fatto indigestione. Delle pietanze che a lui non piacevano, diceva che facevano male e che stavano sullo stomaco. Delle cose che gli piacevano, diceva che facevano bene e che eccitavano la peristalsi. Se veniva in tavola una pietanza che non gli piaceva, si infuriava. «Perché fate la carne in questo modo? Lo sapete che non mi piace!» Se per lui solo facevamo un piatto di qualcosa che gli piaceva, si arrabbiava lo stesso. «Non voglio cose speciali! Non fatemi cose speciali! Io mangio tutto!» diceva. «Non sono difficile come voi altri! Mi importa assai a me del mangiare!» «Non si parla sempre di mangiare! È una volgarità!» tuonava se ci sentiva parlare fra noi di una pietanza o dell'altra. «Come mi piace a me il formaggio!» diceva immancabilmente mia madre ogni volta che veniva in tavola il formaggio, e mio padre diceva: «Come sei monotona, non fai che ripetere sempre le stesse cose!» A mio padre piaceva la frutta molto matura, perciò quando a noi capitava qualche pera un po' guasta la davamo a lui. «Mi date le vostre pere marce, begli asini siete!» diceva con una gran risata che echeggiava per tutta la casa, e mangiava la pera in due bocconi. «E noci?» diceva schiacciando le noci. «Fanno bene, eccitano la peristalsi!» «Anche tu sei monotono!» gli diceva mia madre. «Anche tu ripeti sempre le stesse cose!» Mio padre allora s'offendeva. «Che asina!» diceva. «Mi hai detto che son monotono! Una bella asina sei!» Quanto alla politica, si facevano in casa nostra discussioni feroci che finivano con sfuriate, tovaglioli buttati all'aria e porte sbattute con tanta violenza da far rintronare la casa. Erano i primi anni del fascismo. Perché discutessero con tanta ferocia mio padre e i miei fratelli, non so spiegarmelo, dato che, come io penso, erano tutti contro il fascismo. L'ho chiesto ai miei fratelli in tempi recenti, ma nessuno me l'ha saputo chiarire. Pure ricordavano tutti quelle liti feroci. Mi sembra che mio fratello Mario, per spirito di contraddizione verso i miei genitori, difendesse Mussolini in qualche maniera, e questo certo mandava in bestia mio padre, il quale con mio fratello Mario aveva sempre discussioni su tutto, perché lo trovava sempre di un'opinione contraria alla sua. Di Turati mio padre diceva che era un ingenuo, e mia madre, che non trovava che l'ingenuità fosse una colpa, annuiva, sospirava e diceva: «Povero mio Filippetto!» Venne una volta a quell'epoca Turati a casa nostra, essendo di passaggio a Torino, e lo ricordo, grosso come un orso, con la barba grigia tagliata in tondo nel nostro salotto. Lo vidi due volte, allora e più tardi, quando dovette scappare dall'Italia e abitò da noi nascosto per una settimana. Non so tuttavia ricordare una sola parola che disse quel giorno nel nostro salotto. Ricordo un gran vociare e un gran discutere. E basta. Thank you.